Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Quested, che nome, disse Mrs. Tarton al marito mentre si allontanavano in carrozza. Non aveva provato simpatia per la nuova signorina, che le era parsa brutterella e capricciosa. Sperava proprio che non fosse stata fatta venire là per sposare quel piccolo caro Hislop, anche se ne aveva tutte le apparenze. Il marito in cuor suo le diede ragione, ma se poteva farne a meno non parlava mai male delle donne inglesi e disse soltanto che, naturalmente, Miss Quested faceva degli sbagli. Soggiunse, l'India fa miracoli in tema di buon senso, specie durante la stagione calda, e ha fatti persino su Fielding. A quel nome Mrs. Tarton chiuse gli occhi e osservò che Mr. Fielding non era una persona a posto e avrebbe fatto meglio a sposare lui Miss Quested, perché non era troppo a posto neanche lei. Poi arrivarono al loro bungalow, basso ed enorme, il più vecchio e comodo bungalow del centro amministrativo, con un prato come una scodella da zuppa. Bevvero un altro bicchiere, stavolta di tisana, e andarono a letto. Il loro commiato dal circolo era stato la conclusione della serata che, come tutte le riunioni, aveva una patina ufficiale. Una comunità che si inginocchia davanti a un viceré e crede che la divinità che aureola un sovrano possa essere trapiantata, deve provare una certa reverenza per qualunque viscerale sostituto. A Chandrapur i Tarton erano piccoli dei. Presto si sarebbero ritirati in qualche villa suburbana per morirvi esuli dalla gloria. Take me with you when you go down to the river. It's the only place I know where I can forgive her. Take me with you when you go. I'm tired of living life on hold. Take me with you when you go. Down to the river, down to the river. Down to the river, oh, I know. Che pensiero gentile da parte del Gran Sahib, cianciava Ronnie, molto grato della cortesia che era stata dimostrata alle sue ospiti. Sai che non ha mai fatto una festa ponte prima d'ora? E subito dopo il pranzo per giunta. Magari avessi potuto combinare qualcosa io, ma quando conoscerai meglio la gente di qui, capirai che è più facile per il Gran Sahib che per me. Lo conoscono, sanno che non si può prenderlo in giro. In confronto io sono ancora nuovo. Qui, per cominciare a supporre di conoscere il paese, bisogna esserci da almeno 20 anni. Oh, salve mamma, eccoti il tuo mantello. Beh, tanto per fare un esempio degli sbagli che si commettono. Subito dopo il mio arrivo, dissi a uno degli avvocati difensori di fermarci a fumare un momento insieme, soltanto una sigaretta, vada. Dopo sono venuto a sapere che aveva sguinzagliato emissari per tutto il bazar per annunciare l'evento. Aveva propalato tra tutti quelli che avevano cause: «Oh, fareste meglio a venire dal mio Vakil Mahmud Ali, è in ottimi rapporti col magistrato di città». Da allora in tribunale lo concio peggio che posso. Ma quel fatto mi è servito da lezione e sarà servito anche a lui, spero. E la vera lezione non sarebbe di invitare tutti gli avvocati a fumare con te? Forse, ma il tempo è scarso e la carne è debole. Tutto sommato, preferisco fumare al circolo con la gente come me. Perché non inviti gli avvocati al circolo? Insisté Miss Quested. Proibito. Era cordiale e paziente, ed evidentemente capiva perché lei non capisse. Lasciava intuire che una volta era stato come lei, ma non per molto. Uscito nel portico, lanciò un netto richiamo alla luna. Il servo rispose e lui, senza abbassare il capo, ordinò che si facesse avanzare la sua vettura. Mrs. Moore, messa in uno stato di torpore dal circolo, fuori si riscosse. Guardò la luna che col suo raggiare macchiava di un color di primula la porpora del cielo tutt'intorno. In Inghilterra la luna le era parsa morta e straniera. Qui era impigliata nello scialle della notte insieme con la terra e con tutte le altre stelle. Un repentino senso di unità, di parentela coi corpi celesti passò nella vecchia donna e poi ne uscì, come l'acqua attraverso una cisterna, lasciando dietro di sé una strana freschezza. Non che le dispiacessero la cugina Kate o l'inno nazionale, ma la loro nota era trapassata in un'altra, come i cocktails e i sigari erano trapassati in fiori invisibili. Quando la moschea, lunga e senza cupola, balenò alla svolta della strada, ella esclamò: «Oh sì, sono venuta qui. Proprio qui sono stata». «Stata quando?» le domandò il figlio. Tra un atto e l'altro. Ma mamma, non puoi fare di queste cose. Mamma non può? Ribatté lei. No, proprio no, in questo paese non si fa. Tanto per cominciare c'è il pericolo dei serpenti. È facile che escano di notte. Ah sì, me l'ha detto anche quel giovanotto. Tutto questo è molto romantico, disse Miss Quested, che voleva un gran bene a Mrs. Moore ed era contenta che avesse fatto quella scappatella. Incontrate un giovanotto in una moschea e poi non mi dite niente. Stavo per dirtelo, Adela, ma poi si è cambiato discorso e me ne sono dimenticata. Oh, la mia memoria sta diventando impossibile. Era simpatico. Lei rimase zitta, poi disse vivamente: molto simpatico. Chi era? Domandò Ronnie. Un medico. Non so come si chiama, rispose sua madre. Un medico? Non conosco nessun medico giovane a Chandrapur. Che strano. Com'era? Piuttosto piccolo, coi baffetti sottili e gli occhi vivaci. Mi ha richiamata quando ero nella parte buia della moschea per le mie scarpe. Abbiamo attaccato discorso così. Lui temeva che le avessi ai piedi, ma per fortuna me ne ero ricordata. Mi ha parlato dei suoi figli e poi siamo tornati al circolo. Lui ti conosce bene. Peccato che non me l'hai fatto vedere. Non riesco a capire chi sia. Non è entrato al circolo, mi ha detto che non gli era permesso. Allora lui fu colpito dalla verità ed esclamò: «Oh, santo cielo! Era un musulmano! Perché diamine non mi hai detto che avevi parlato con un indigeno? Stavo prendendo un granchio!» «Un musulmano! Che bellezza!» esclamò Miss Quested. «Ronnie, questo somiglia proprio a tua madre. Non si parla d'altro che di vedere la vera India. Lei va e la vede e poi si dimentica d'averla vista!» Ma Ronnie era furioso. Dalla descrizione della madre aveva pensato che quel dottore potesse essere il giovane Muggins che stava di là dal Gange e aveva espresso i più perfetti sentimenti camerateschi. «Oh, che pasticcio!» Perché non gli aveva fatto capire col tono della voce che parlava di un indiano? Rauco e dittatoriale cominciò a interrogarla. Ti ha parlato nella moschea? Come? Con impudenza? E lui? Cosa faceva là a quell'ora? No, loro non pregano a quell'ora. Questo in risposta a un'ipotesi di Miss Quested che mostrava il più vivo interesse. Ah, sì, che ti ha parlato delle scarpe. Proprio una vera impudenza. Ah, un vecchio trucco. Peccato che te le fossi tolte. Impudenza, forse, ma trucco, non credo, disse Mrs. Moore. Aveva i nervi scoperti, l'ho capito dalla sua voce. Non appena ho risposto, è cambiato. Non avresti dovuto rispondere. Ma via, disse la logica ragazza. Non ti aspetti che un musulmano risponda se gli chiedi di togliersi il cappello in chiesa? È un'altra cosa, è un'altra cosa, non capisci? Lo so anch'io, e vorrei capire. Qual è la differenza, per piacere? Ronnie avrebbe preferito che lei non interloquisse. Sua madre non contava, non era che una turista, una scorta provvisoria, che poteva tornarsene in Inghilterra con tutte le impressioni che voleva. Ma per Adela, che si proponeva di passare la vita in quel paese, la cosa era più seria. Sarebbe stato un bel impiccio se impostava male la questione indigena. Fermando la puledra disse: «Ecco, il vostro Gange». La loro attenzione fu distratta. Qualcosa di raggiante era improvvisamente apparso ai loro piedi e non veniva né dall'acqua né dalla luna, ma si innalzava come un cumulo luminoso sui campi d'ombra. Ronnie spiegò che era il punto dove si stava formando il nuovo banco di sabbia, che quel tratto di buio filaccioso più in alto era la sabbia e che le salme dei morti venivano giù di lì galleggiando da Benares, o sarebbero venute se i coccodrilli glielo avessero permesso. Non resta granché di un cadavere quando arriva a Chandrapur. Anche i coccodrilli? Ma è tremendo, mormorò la madre. I giovani si guardarono con un sorriso. Gli divertiva quando la vecchia signora era presa da questi gentili tremori e subito tra loro si ristabilì l'armonia. Quella continuò. Che fiume terribile. Che fiume incantevole. E sospirò. Lo splendore già stava cambiando, fosse la luna che si muoveva o la sabbia. Ben presto quel cumulo luminoso sarebbe scomparso e un cerchietto mutevole anch'esso avrebbe brillato sul vuoto trascorrente. Le donne discussero se era il caso di aspettare quel cambiamento, mentre il silenzio si frantumava in chiazze di inquietudine e la puledra tremava. Fu quel tremito a deciderlo. Ripresero il cammino verso il bungalow del magistrato di città, dove Miss Quested andò a letto e Mrs. Moore ebbe un breve colloquio col figlio. Lui voleva interrogarla sul medico musulmano della moschea. Aveva il dovere di denunciare i tipi sospetti. Quando la madre gli disse che si trattava di persona in rapporto con l'ospedale Minto, lui ne fu sollevato e disse che doveva essere un certo Aziz e che era un uomo molto a modo su cui non c'era niente da ridire. Aziz? Che bel nome. Sicché avete fatto conversazione? Ti è sembrato ben disposto? Ignorando la portata di quella domanda, lei rispose «Sì, molto», dopo il primo momento. «Voglio dire, in generale». Ti è parso che ci tollerasse, noi altri, brutali conquistatori, burocrati, incartapecoriti, eccetera, eccetera? Oh, sì, sì, credo di sì, esclusi i Callender. I Callender non li può proprio soffrire. Ah, ti ha detto questo, eh? Al maggiore interesserà molto. Chissà dove voleva arrivare con quell'osservazione. Ronnie, non andrai a riferirla al maggiore Callender? Sì, invece, devo farlo. Ma, figlio mio, se il maggiore venisse a sapere che un mio dipendente indigeno mi detesta, garantito che me lo direbbe. Ma, figlio mio, una conversazione privata. In India non c'è niente di privato. Aziz lo sapeva quando ha parlato così franco, perciò non preoccuparti. Se l'ha detto, doveva avere un motivo. Ha parlato male del maggiore per farti colpo. Ma non so che cosa intendi, caro. È l'ultimo espediente degli indigeni colti. Prima erano servili, ma la generazione più giovane crede negli sfoggi di virile indipendenza. Pensano che con i membri del Parlamento in ispezione sia più vantaggioso. Ma che facciano gli spavaldi o che striscino, in tutto quello che dicono gli indiani c'è dietro qualcosa, sempre qualcosa. Se non altro, tentano di accrescere il proprio onore, la propria reputazione, decoro, dignità, in puro anglosassone, di avvantaggiarsi. Naturalmente ci sono le eccezioni. Quando eri a casa, non hai mai giudicato la gente così? L'India non è casa, ribatté lui piuttosto rudemente. Lei disse soltanto, non nego che quello che dici pare molto sensato, ma... Assolutamente non devi riferire al maggiore Callender una sola parola di ciò che ti ho detto del dottor Aziz. Lui si sentì sleale verso la propria casta, ma promise, soggiungendo, «In cambio, ti prego di non parlare di Aziz con Adela». «Non parlarne? E perché?» Eccoti da capo, mamma, non posso proprio spiegarti tutto. Non voglio che Adela si preoccupi, questo è il punto. Comincerà a domandarsi se trattiamo correttamente gli indigeni e altre sciocchezze del genere. Ma lei è venuta per preoccuparsi. È qui proprio per questo. Mi ha spiegato tutto sul piroscafo. Quando siamo sbarcate a Aden, abbiamo parlato a lungo. Lei ti conosce sfaccendato, per usare la sua espressione, ma non al lavoro. E ha sentito che doveva venire a dare un'occhiata prima di decidere, e prima che tu decida. È molto, molto onesta. Lo so, disse lui scoraggiato. Quell'ansioso tono di voce le fece capire che era ancora un bambino, al quale si deve dare quello che vuole. Perciò gli promise che avrebbe fatto come desiderava. E si scambiarono il bacio della buonanotte. Comunque non le aveva proibito di pensare ad Aziz, e questo appunto fece non appena si fu ritirata in camera. Dopo i commenti del figlio, riesaminò la scena nella moschea per vedere chi avesse l'impressione più giusta. Sì, era possibile ridurla a una scena spiacevolissima. Il dottore aveva cominciato col metterle paura, aveva detto che la signora Callender era simpatica e poi, trovato il terreno sicuro, aveva cambiato tattica, aveva via via piagnucolato sulle angherie subite e preso aria di protettore, aveva alluso a 20 cose in una sola frase, era stato infido, curioso, vanesio, sì, era tutto vero, ma quanto falso, come compendio dell'uomo. L'essenziale della sua vita era stato soppresso. Andata ad appendere il mantello, trovò che il piolo dell'attaccapanni era occupato da una piccola vespa. Aveva conosciuto quella vespa o i suoi parenti durante il giorno. Non erano come le vespe inglesi. Avevano lunghe zampe gialle che nel volo pendevano di dietro. Forse aveva scambiato il piolo per un ramo. Gli animali indiani non sanno distinguere gli interni. Pipistrelli, topi, uccelli, insetti fanno il nido tanto in casa quanto fuori. Si tratta per loro della normale proliferazione dell'eterna giungla, che produce alternativamente case e alberi, case e alberi. Stava appesa lì, addormentata, mentre gli sciacalli nella pianura latravano i loro desideri e si confondevano col rullo dei tamburi. Piccola cara, disse Mrs. Moore alla vespa. Quella non si svegliò, ma la voce della vecchia signora fluì all'esterno, rendendo più gonfia l'inquietudine della notte. Mandam, mandam, jaladara, jaghajur anusakaram. Nishite tama udbhute jayamane janadane. Devakyam devarupiyam. L'intendente generale Tarton fu di parola. Il giorno dopo spedì a numerosi gentiluomini indiani dei dintorni biglietti d'invito, dove diceva che il prossimo martedì, tra le 5 e le 7, li avrebbe accolti nel giardino del circolo e che Mrs. Tarton sarebbe stata lieta di ricevere le signore loro congiunte. L'iniziativa fece molto rumore e se ne discusse in parecchi ambienti. «Sono gli ordini del governatore», spiegava Mahmoud Ali. «Tarton non lo farebbe mai se non vi fosse costretto». Quegli alti funzionari sono diversi, sono comprensivi, il viceré è comprensivo, ci avrebbero fatti trattare degnamente, ma vengono troppo di rado e vivono troppo lontano, e intanto... È facile essere comprensivi a distanza, disse un vecchio gentiluomo con la barba. Io apprezzo di più la parola gentile detta vicino al mio orecchio. Bene o male, il signor Tartan l'ha detta. Lui parla, noi sentiamo. Non vedo perché dovremmo discutere ancora. Seguirono citazioni del Corano. Non tutti abbiamo il vostro buon carattere, Nawab Bahadur, né la vostra cultura. Può darsi che il governatore sia mio buon amico, ma io non gli do nessun disturbo. Come state, Nawab Bahadur? Benissimo, grazie, Sir Gilbert. E voi? E tutto finisce qui. Ma per il signor Tartan posso essere una spina nel cuore, e se lui mi invita, io accetto. Verrò appositamente da Dilkush, sebbene mi tocchi di rimandare altri impegni. Vi svaluterete, disse improvvisamente un piccolo uomo scuro di pelle. Ci fu un moto di disapprovazione. Chi era quel malnato che osava criticare il primo tra i possidenti musulmani del distretto? Mahmud Ali, pur condividendone l'opinione, sentì il dovere di contraddirla. «Mister Ramchand!» disse, chinandosi rigido con le mani sui fianchi. «Mister Mahmud Ali? Mister Ramchand! Ritengo che il Nawab Bahadur sappia che cos'è la svalutazione anche senza il nostro parere!» «Non credo che mi svaluterò!» disse il Nawab Bahadur a Mr. Ramchand, parlando con molta gentilezza, perché si rendeva conto che l'uomo era stato ineducato e voleva metterlo al riparo dalle conseguenze. Aveva avuto la tentazione di rispondere «credo proprio che mi svaluterò», ma respinse questa alternativa come la meno cortese. «Non vedo perché dovremmo svalutarci. Non vedo proprio perché. L'invito è espresso con molto garbo». Sentendo che non poteva accorciare ulteriormente la distanza sociale tra lui e i propri ascoltatori, mandò il suo elegante nipote, che lo accompagnava, a chiamare la carrozza. E quando questa giunse, ripeté tutto quello che aveva detto prima, ma più diffusamente, e concluse: «Allora, signori miei, a martedì prossimo, quando potremo ritrovarci, spero, nei giardini fioriti del circolo». Nawab Bahadur era un grande proprietario e un filantropo, un uomo benevolo e fermo. La sua tempra si imponeva tra tutte le comunità della provincia. Era un limpido avversario e un amico fedele, e la sua ospitalità era proverbiale. Sua frase preferita: «Non prestare, dona. Dopo la morte, chi mai ti dirà grazie?» Reputava una sventura morire ricchi. Visto che un uomo così era pronto a farsi 25 miglia d'auto per stringere la mano all'intendente generale, il trattenimento prese un altro aspetto. Perché lui non era come certi uomini importanti che, dopo di aver assicurato il proprio intervento, all'ultimo si volatilizzano, lasciando nelle peste la gentuccia. Se diceva che sarebbe andato, ci si poteva contare, non avrebbe mai deluso chi credeva in lui. Nessun invito forse può venire altro che dal cielo. Forse è inutile che gli uomini si accingano a unirsi. Quel tentativo non può che allargare l'abisso tra di loro. Questo in ogni caso pensavano il vecchio padre Graceford e il giovane padre Sorley, i due pii missionari che vivevano oltre i mattatoi, viaggiavano sempre in terza e non andavano mai al circolo. Nella casa di Nostro Signore ci sono molte dimore, insegnavano, e solo lì le discrepanti moltitudini del genere umano saranno accolte e pacificate. In quel portico nessuno sarà respinto dai servi, nero o bianco che sia, nessuno che si avvicini con cuore amorevole sarà fatto aspettare. E perché la divina ospitalità dovrebbe limitarsi a questo? Pensate, salvo il rispetto alle scimmie. Non potrebbe esserci anche una dimora per le scimmie? Il vecchio padre Graceford diceva di no, ma il giovane padre Solley, che era di idee avanzate, diceva di sì. Non vedeva per quale ragione le scimmie non dovessero avere la loro relativa parte di felicità, e sull'argomento aveva cordiali discussioni coi propri amici indù. E gli sciacalli? In verità gli sciacalli contavano meno, secondo padre Solley, ma lui ammetteva che la misericordia divina, essendo infinita, può anche abbracciare tutti i mammiferi. E le vespe? Quando si scendeva fino alle vespe, egli si innervosiva ed era propenso a cambiare discorso. E gli aranci? I cactus, i cristalli, il fango e i microbi dentro padre Solley? No, questo è andare troppo oltre. Qualcuno va pure escluso dalla nostra accolta, o si rimane senza più niente. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.